Buonasera, un benvenuto alle nostre relatrici che vi presento. Abbiamo Katia Occhi dell'Istituto Italo-Germanico, la Fondazione Bruno Kessler di Trento e Lucia Tedesco, sempre dell'Istituto Italo-Germanico e Fondazione Bruno Kessler e anche dell'Università di Trento. Sono accompagnate dal professor Andrea Bonoldi, che già conoscete, dall'ideatore di questo ciclo di conferenze Ambiente, Mercati e Comunità, uno sguardo sulla storia delle Alpi. Abbiamo affrontato già due argomenti, anzi un argomento, che è stato l'11 marzo, la storia economica, sociale e ambientale delle Alpi, percorsi di ricerca. Questa conferenza, come tutte le altre che abbiamo fatto in questi anni, in questi 20 e passa anni, sono riascoltabili attraverso i podcast del nostro sito, quindi se avete piacere di sentire anche la prima conferenza dell'11 marzo, la trovate, è ascoltabile attraverso il sito della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, nella sezione podcast. E come quella dell'11 marzo, anche quella di stasera, a partire da domani o al più tardi da dopodomani, sarà udibile e riascoltabile sempre dal nostro sito. Il titolo di questa sera è Boschi e società nelle Alpi, il caso della Val di Fieme nell'Ottocento. Abbiamo capito che la Val di Fieme è un caso eccezionale, l'abbiamo sentito anche la volta scorsa, abbiamo avuto un'anticipazione dal professor Bonoldi e questa sera entreremo nel vivo grazie alle nostre due relatrici, che ringrazio ancora per la loro presenza e anche per il ritorno, come nel caso di Katia Occhi, che ci ha accompagnato in questi anni. Abbiamo detto ieri, però insomma, dai, ancora nella vecchia sede di Via Mendola ci siamo incontrate e conosciute, e per fortuna che continuiamo con questa amicizia e collaborazione. Ricordo velocemente i prossimi due appuntamenti, che saranno il 1° di aprile, un modo diverso di possedere, i domini collettivi in area alpina tra passato e futuro, con Christian Zendri e Giovanni Zagnoli, e il 20... Eccolo, ah, è lì, è lui. Buonasera. E poi il 29 di aprile, Sta Natura Ognor Verde, geografia storica, patrimonio bioculturale e gestione delle risorse ambientali in area alpina nel XVIII e XXI secolo, con Nicola Gabellieri. Come sempre faccio un breve spot anche dei prossimi appuntamenti della biblioteca, e precisamente il 26 marzo, cioè domani alle 17, avremo Marina Michielotto che ci presenta il suo libro Vivere di lunedì, insieme a Maria Piezzanetti che darà voce ad alcuni passaggi e a Daniela Nicoletti che modererà la serata qui in biblioteca, nella sala della nostra biblioteca. E poi invece il 1° di aprile avremo l'Iden Salon, copriremo la nostra biblioteca la sera alle 17 fino alle 20 per ospitare delle idee. Ecco, quindi chiunque abbia un'idea pazza o anche meno pazza, ma comunque abbia voglia di dare, di regalarci un'idea, di coltivarla insieme a noi, è invitato a presentarsi il 1° di aprile, non è un pesce d'aprile, ecco, il 1° di aprile alle 17 presso la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. E poi abbiamo altri incontri come il gruppo di lettura il 16 di aprile, e se avete piacere, insomma, nella biblioteca abbiamo i volantini, ma anche qua fuori sul tavolino ci sono tutti gli appuntamenti. Adesso io vi lascio con i nostri ospiti alla scoperta dei boschi della società nelle Alpi, la nostra Val di Fiemme, e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie. Bene, grazie Valeria per questa presentazione, grazie per ospitare questo ciclo, un grazie anche in particolare a chi ha sostenuto dal punto di vista logistico la cosa, penso a Jasmine Farina e a Karin, sempre attiva in varie funzioni, e al nostro valente tecnico, insomma, che ci segue sempre. Allora, come si inserisce questo incontro di oggi nel ciclo che abbiamo presentato? Allora, il titolo del ciclo è Ambiente, Mercati e Comunità, no? Sono queste dimensioni diverse che si intrecciano nel definire quelle che sono state le traiettorie, le vicende dell'interazione tra uomo e natura, no? in ambito alpino. Un ambiente difficile, no? Che pone dei vincoli alle attività umane molto, molto chiare, ma che non ha ostacolato l'affermarsi di esperienze umane importanti. E il mercati, la capacità comunque delle popolazioni delle Alpi di utilizzare le risorse che avevano a disposizione in maniera efficiente, non soltanto per soddisfare i propri bisogni immediati di sopravvivenza, ma anche per scambiare con le aree circostanti. E quindi questa caratteristica di mobilità, di apertura, di scambio, che è sempre stato un elemento di fondo della realtà alpina, nonostante alcune narrazioni tendano piuttosto, no, a descrivere le Alpi come un mondo chiuso e impenetrabile. In realtà sappiamo che non lo è mai stato, e era difficile anche che lo fosse, proprio per questa difficoltà, no, ad avere tutte le risorse necessarie per il soddisfacimento dei propri bisogni. Quindi le Alpi sono una realtà basata necessariamente su un utilizzo attento delle risorse locali, e voi potete immaginare, no, in questo contesto in cui c'è una grande diversificazione dei suoli, dei climi, no, dell'esposizione del sole, delle quote, ci sono dei limiti precisi alle intensificazioni dell'attività agricola, no? A differenza di quello che succede nel fondovalle, dove è possibile appunto aumentare la produzione dell'agricoltura, questa cosa è molto più complessa invece in montagna, dove gli spazi sono decisamente più limitati, la terra coltivabile è più limitata, e appunto i limiti climatici di quota rendono complicato questo processo. Allora, culture intensive possiamo fare nel fondovalle, come c'è adesso nel fondovalle Atesino, pensiamo appunto alla cultura delle mele oppure alla cultura dell'uva, ma nella realtà un po' più in quota l'equilibrio economico era caratterizzato da un regime che è stato definito agro-silvo-pastorale. Cosa significa? Che necessariamente le comunità di montagna dovevano praticare un'agricoltura, per quanto fosse possibile nelle poche aree pianeggianti, che per la coltivazione dei cereali o delle patate, insomma, che costituivano una componente fondamentale della dieta, ma non erano sufficienti queste per garantire la sopravvivenza delle famiglie, quindi occorreva integrare con attività che sfruttassero in modo strategico quelle che erano le altre fasce climatiche della montagna, e quindi anche il bosco, che stava subito sopra l'area che era utilizzabile per l'attività agricola, un bosco che, come vedremo poi, come ci racconteranno le nostre relatrici, insomma, dava risorse importanti non soltanto per la comunità che viveva sul territorio, ma anche per essere esportate, per essere scambiate fuori. E poi sopra la fascia del bosco c'è la fascia dei pascoli, invece, che poteva essere sfruttata. E quindi questo mondo verticale, che è la montagna, c'è questa strategia di utilizzo di tutte le fasce altimetriche per soddisfare i bisogni della popolazione. E questa cosa è rappresentata anche simbolicamente, per esempio, nei masi chiusi della Val Senales, che sono caratterizzati per essere definiti sulla base di un tratto di fiume di fondovalle e poi strisce lunghissime che partono dal fondovalle e arrivano fino in quota, no? E quindi hanno a disposizione tutte queste diverse questi diversi ecosistemi, insomma, che vengono sfruttati poi per garantire appunto l'equilibrio economico della famiglia. Allora, il bosco è una risorsa fondamentale in questo contesto, nel contesto della montagna, lo è per le economie locali, lo è per l'esportazione, è un bene di esportazione importantissimo della montagna. Pensate che nel 1801 un bilancio sull'esportazione, una bilancia commerciale, diciamo, del Tirolo, diceva che si esportavano circa legname per 155.000 pezzi, per un valore di 936.000 fiorini, che era circa il 13,5% dell'attivo commerciale dell'esportazione. Quindi è veramente un'attività molto importante, che consente poi di andare a comprare fuori beni che invece erano scarsi sul territorio, come i cereali, ad esempio, no? che venivano importati in grande quantità. Sul bosco si concentrano una serie di quesiti molto importanti per la storia del nostro territorio. Di chi era? Di chi era la proprietà del bosco? E qui vediamo che ci sono equilibri diversi e modalità diverse che rispondono a quelli che sono i vincoli ambientali, ma rispondono anche a diversi sistemi giuridici che sono presenti sul territorio. C'è realtà in cui il bosco è ampiamente privato, come succede in una parte importante anche dell'Alto Adige, realtà invece in cui, nel caso della Val di Fiemme, c'è una proprietà collettiva. Oggi, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta, la magnifica comunità di Fiemme è titolare di 11.000 ettari di bosco, quindi di un'estensione di bosco enorme che ha una grande rilevanza dal punto di vista economico. Allora, di chi era il bosco, come si valorizzava, quali erano le attività che venivano svolte per utilizzare le risorse che il bosco metteva a disposizione, e poi l'aspetto interessante che è alla base anche delle ricerche che Lucia Tedesco sta facendo è quali erano le figure professionali, qual era l'interazione fra le persone, il bosco, qual erano le attività che venivano fatte dagli uomini, dalle donne. C'è tutto un mondo di attività nel bosco che merita di essere indagato. E poi c'è la grande questione, che è importante anche nella nostra prospettiva attuale: quali erano le strategie che le comunità adottavano per garantire la sostenibilità, no? Questa parola totem che utilizziamo oggi e che le società del passato avevano ben presente, perché c'era ben chiara la necessità di utilizzare la risorsa per soddisfare i propri bisogni, ma anche della necessità di mantenere la risorsa perché potesse garantire poi il soddisfacimento dei bisogni anche delle generazioni future. E oggi il bosco è tornato a essere un soggetto non soltanto economico, ma che ha anche un valore molto più ampio. Parliamo di servizi ecosistemici, no? Quando si parla del bosco oggi, perché non è solo il valore legato direttamente alla produzione del legname, che continua comunque a essere importante, ma anche tutti i servizi di conservazione del territorio, di servizi legati anche al regolamento alla regolazione del clima, e anche servizi legati al tempo libero, al piacere che dà il bosco come un posto dove si può passeggiare, dove si può andare, dove si può fare attività ricreativa, è un elemento di biodiversità. Quindi oggi continua a mantenere un valore molto, molto importante. Allora, abbiamo qui con noi, siamo fortunati, Lucia Tedesco e Katia Occhi, che sono due grandi esperte di questo tema, una esperta un po' più junior, una un po' più senior, ma solo in termini di esperienza, e non faccio nessun riferimento all'anagrafe ovviamente, e che hanno preso questo approccio appunto sulla relazione fra l'attività del bosco e la società. Allora vi presento rapidamente Lucia Tedesco, che ha conseguito la laurea magistrale in scienze filosofiche presso l'Università di Bologna, si è occupata di giustizia ambientale nella Laguna Veneta, quindi abbiamo ancora questo un ambiente particolare, no, in cui c'è un'interazione con una natura complessa e le comunità umane. Poi nel 2021 ha svolto un breve periodo di ricerca presso l'Environmental Humanities Laboratory di Stoccolma, nel 2023 poi ha frequentato un master di secondo livello in Environmental Humanities presso l'Università di Roma III, e attualmente si occupa della storia sociale dei boschi in Val di Fiemme grazie a una borsa di dottorato cofinanziata dall'Università di Torino e dall'Istituto Storico Italo-Germanico Fondazione Bruno Kessler di Trento, e supervisionata tra l'altro anche da Katia Occhi. Katia Occhi, molti di voi la conosceranno, è ricercatrice appunto presso l'Istituto Storico Italo-Germanico, ha una laurea, un dottorato di ricerca in storia che ha preso a Milano, io mi azzardo a dire, la più grande esperta di storia del bosco, almeno per quanto riguarda le Alpi orientali. Lo dico cautelativamente, si potrebbe estendere anche là. Lei ha concentrato le sue ricerche, ha numerosi progetti di ricerca che ha portato avanti in questo ambito, ha pubblicato anche recentemente, ha curato recentemente alcuni importanti volumi che sono usciti proprio sul ruolo del bosco, ma anche in generale sulla storia ambientale. Ricordo per esempio Storia ambientale, nuovi approcci e prospettive di ricerca, e in particolare sui boschi, vi ricordo la sua monografia del 2006, Boschi e mercanti, traffici di legname tra la Contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia. Benissimo, direi che è straora di passare la parola alle nostre relatrici, e poi vi ricordo insomma che alla fine della relazione ci sarà spazio insomma per domande e curiosità da parte vostra. Grazie per questa lusinghiera presentazione, Andrea Bonoldi, e per aver organizzato questo evento e averci voluto qui con voi questa sera. Innanzitutto un ringraziamento a Valeria Trevisan e al suo staff, a questo gruppo attivo e molto ben preparato sul tema boschi, che ci obbliga anche stasera, insomma, ci fa entrare anche voi come pubblico dentro questo tema che può essere affrontato da varie prospettive, da vari approcci. Come ha anticipato Andrea Bonoldi, questa sera presentiamo questa ricerca, che è una ricerca di dottorato dedicata appunto alla storia ambientale delle Alpi, che viene cofinanziato dall'Istituto Storico Italo-Germanico e dall'Università di Torino. Boschi, Val di Fiemme, 800, però data la mia sensibilità, le mie competenze, sono una storica e prima di entrare nei boschi della Val di Fiemme vi vorrei fare un piccolo tour in perché abbiamo cominciato a studiare e come è stata studiata la storia dei boschi nei secoli passati. Possiamo orientativamente pensare a come una prima fase in cui a occuparsi di boschi sono stati gli scienziati forestali. Si comincia alla fine dell'Ottocento, gli scienziati forestali per eccellenza, che richiamo qui stasera, sono Adolfo di Béranger, che è noto soprattutto per aver scritto quest'opera dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia, è uno studioso molto importante perché si era appunto occupato nell'amministrazione forestale del Ducato di Parma e nel Veneto austriaco. Al di Béranger dobbiamo tutta una serie di volumi, che potete vedere qui nella diapositiva, ma sostanzialmente il suo grande merito è quello di esaminare in forma comparata e nel tempo, quindi sin dall'antichità romana, le modalità di regolamentazione dell'uso dei boschi. Quindi si parte con gli scienziati forestali alla fine dell'Ottocento, è una fase naturalmente di formazione di questo personale a servizio della monarchia asburgica, anche di Béranger studia a Maria Bruna a Vienna, e comunque siamo in questa fase ottocentesca dove si creano queste nuove competenze, queste expertise, e anche gli scienziati forestali hanno appunto un loro rilievo nel panorama scientifico dell'epoca. Molto meno noto Joseph Vessely, ma altrettanto importante. Joseph Vessely, è più o meno un contemporaneo di Béranger, studia anche lui a Vienna, non sappiamo se si conoscessero, ma dati i temi e la vicinanza di interessi è molto presumibile che appunto, perché erano anche tra l'altro quasi coetanei, di Joseph Vessely restano oltre 300 titoli che lui ha pubblicato su vari temi. La vedete qui, una storia delle foreste nelle Alpi, degli studi sui sistemi del trasporto, il taglio del legname o il cidolo di Perarolo, che vedete qui, che è questo grande sbarramento sul Piave per agevolare la fruitazione. Josef Vessely è stato direttore della scuola forestale in Moravia e poi successivamente direttore dell'Accademia Forestale di Vienna. Un busto di Vessely oggi si trova a Vienna, proprio nei pressi dell'università, la Boku dell'Università di Vienna, ed è comunque testimonia insomma, l'importanza di questa figura nel panorama degli studi forestali ottocenteschi. Conosciamo poco, ma è una figura che sarebbe molto importante approfondire. Dai forestali facciamo un salto temporale. Arriviamo attorno alla metà del XX secolo e a occuparsi di boschi comincia la scuola storiografica, appunto gli storici, prima di tutto gli storici economici. C'è questo libro importante di Werner Sombart, si chiama Der moderne Kapitalismus, un capitolo è proprio dedicato all'importanza del legno come elemento distintivo delle società di antico regime. Questo volume venne pubblicato in italiano in due edizioni, ma questa sezione sull'importanza del legno nell'economia preindustriale non è stato mai tradotto nelle versioni italiane, per cui è di fatto comunque un quadro, è un'importanza, una traccia su come funzionava lo sfruttamento del bosco, quali erano i prodotti che potevano venire estratti dall'economia forestale e l'importanza delle società commerciali impegnate nello sfruttamento dei boschi, che comunque danno un quadro di... sono molto ancora utili, secondo me, ancora adesso, nonostante il libro sia appunto questa edizione risalga al 1916-17. Un altro santo temporale, Fernand Braudel, siamo nella scuola delle Annales, quindi Fernand Braudel è uno degli storici più importanti di questa storia storiografica francese, e a lui si deve questa espressione felice sulla onnipresenza del legno. Quindi l'onnipresenza del legno è questo fenomeno per cui nelle società preindustriali il legno, attorno al legno ruota tutta la società civile, la società economica, proprio perché è un materiale impiegato in tutti questi settori. Questi due lavori, diciamo Sombard e Braudel, sono il paradigma, ma ce ne sono tanti altri, di un filone di studi in cui il ruolo centrale del legno viene individuato per due aspetti, quindi il legno come fonte d'energia e poi il legname come materia da costruzione. Naturalmente questo tipo di approccio, l'approccio storico, viene ulteriormente approfondito da una serie di altre sensibilità e altre competenze che vengono continuamente rinnovate e vengono affrontate da prospettive multiformi. Lo vedete qui, di Boschi si sono occupati da un punto di vista letterario Bruno Vecchio con questo lavoro sulla pubblicistica dedicata ai boschi negli stati preunitari, una serie di lavori li dobbiamo a Diego Moreno, quindi la prospettiva archeologica, ecologico-archeologica, quindi l'analisi dei sistemi agro-silvopastorali di cui ci ricordava il collega Andrea Bonoldi. Naturalmente gli storici economici hanno sempre avuto questa sensibilità e questo interesse proprio per l'importanza nell'economia del passato. E poi ancora, lo vedete qui, Mauro Agnoletti, Storia del Bosco nel 2018. Mauro Agnoletti è uno storico, è un forestale prestato alla storia. Quindi comunque, insomma, voglio dire, l'interesse l'interesse storico da parte degli scienziati forestali è continuato, insomma, da Di Berenger in avanti, ma il mio excursus andrà veramente molto rapido perché vuole essere una sorta di piccolo flash per raccontare come si arriva poi alla Val di Fiemme. Il bosco torna fortemente nel centro del dibattito storiografico proprio a proposito delle questioni legate alla ricerca di forme alternative o complementari alle fonti energetiche fossili. Per cui vedete qui una serie di lavori che sono usciti in questi ultimi anni dedicati proprio alle forme energetiche alternative e contemporaneamente l'importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale, economica, energetica, di cui appunto anche Andrea Bonoldi ha appena fatto un richiamo. All'interno di questa grande campitura, i boschi e la storia, si apre questa, diciamo, una finestra che si chiama I boschi e le Alpi. E questo è particolarmente interessante perché ci avviciniamo poi alla ricerca che Lucia Tedesco presenterà tra poco. E i boschi e le Alpi, in particolare le Alpi sudorientali. Questi studi sono stati particolarmente dinamici e vivaci proprio perché l'interesse verso Venezia, verso la conservazione della laguna, gli interessi legati agli studi per l'interramento della laguna hanno portato a sviluppare una sensibilità attorno al rapporto acque e montagna, acque e boschi, acque e fiumi, che ha dato, diciamo, che è stato rilanciato, insomma, da questo studio della fine degli anni Ottanta di Philippe Bronstein. È un saggio, appunto, che già lo dice il titolo, della montagna Venise, le reti dei boschi nel XV secolo. Da Philippe Bronstein, che è questo storico francese che lavorava all'École des Hautes Études, ha preso via una serie di ulteriori approfondimenti che sono sia di tipo etnografico, ma di cui non vi parlerò adesso, ma quello che è importante richiamare è che ci sono alcuni temi chiave nella storiografia venezianista che sono appunto gli aspetti commerciali dello sfruttamento del bosco, quindi questo libro sulla Carnia che è un po' il primo, gli aspetti poi legati all'approvvigionamento di materie prime per l'arsenale, con questo studio del 2009 di Carl Appon, che è appunto Forest on the Sea, che vedete qui, e poi un lavoro più recente del 2021 di Antonio Lazzarini, che appunto analizza e approfondisce le magistrature preposte al controllo dei boschi, sia per i bisogni energetici, quindi i provveditori alle legne e ai boschi, e poi i provveditori patrimoniali arsenale, che sono poi di fatto la magistratura preposta alla, diciamo, all'approvvigionamento del legname per i cantieri navali. Quindi attorno all'arsenale si è comunque catalizzato un forte interesse che ha portato a tutta una serie di studi, di cui questi che vi faccio vedere qui possono considerarsi, insomma, diciamo, quelli più rappresentativi. Avviciniamoci proprio alla presentazione di Lucia. L'ultima fase l'ho chiamata New Forest History, un po', insomma, in dialogo ideale con i colleghi che all'estero stanno molto lavorando su questo tema. In Italia la storia forestale è, come vi dicevo, appannaggio dei forestali, ha attraversato l'interesse degli storici. In questi ultimi 4-5 anni sta prendendo nuovamente piede, e soprattutto grazie ai confronti che nascono all'interno nell'ambito di altre discipline. Ho voluto chiamarli New Forest History perché mi sembra esemplificativo di nuove sensibilità. Li vedete qui, anche qui ho richiamato alcuni lavori che, insomma, sono lavori più recenti. I temi, come diceva anche Andrea Bonoldi prima, sono: chi detiene i diritti di valorizzare i boschi, perché alcune comunità hanno appunto diritto a valorizzare questi boschi e perché altre ne sono escluse, come utilizzano i diritti che possono esercitare sui boschi all'interno delle vallate. L'aspetto commerciale continua a essere importante, quindi come si è sviluppata la filiera del legname che porta appunto alla commercializzazione. Un aspetto che, su cui anch'io ho avuto modo di lavorare tanto, è le strutture aziendali e le alleanze parentali, quindi come di fatto queste siano società familiari unite da legami parentali transnazionali. Quali tipologie di consumi portano appunto allo sfruttamento? Qual è l'esito e quali sono le tipologie dei consumi legati allo sfruttamento intensivo dei boschi? L'ultima slide è un richiamo sui lavori proprio più recenti, è questo dibattito rinnovato sulla storia ambientale, in cui il bosco torna ad avere un peso molto importante anche in prospettiva, di nuovo in prospettiva globale, di storia globale. Quindi questo lavoro che vi ho segnalato qui, Global Environment, un lavoro sullo sfruttamento delle periferie del legname, del carbone nell'Europa attuale e ottocentesca. Un numero recente di imprese storie, di nuovo appunto imprese ambiente, in cui appunto l'ambiente viene analizzato attraverso le chiavi della storia d'impresa. E più l'ultimo, più recente, questo libro del 2024, questo è un numero monografico di questa rivista tedesca, World Based Business and the Economic Development of Europe, è un saggio appunto con tutta una serie di lavori di colleghi che di nuovo affrontano appunto l'importanza della risorsa legno per le economie ottocentesche e novecentesche. E con questo il passo veramente il testimone da senior a junior, e quindi lo sguardo alla nuova storia forestale, New Forest History, il caso di studio Lucia Tedesco. Prego. Posso mettere? Sì. Buonasera. Ops, forse sono un po' troppo vicino, non so. Prima di tutto vi toccherà sentire anche i miei ringraziamenti. Questo posto è bellissimo e le persone che ci lavorano sono molto gentili, quindi grazie per l'invito, grazie al professor Bonoldi per aver tenuto insieme tutti questi incontri e a Katia Occhi per aver fatto questa panoramica sullo studio dei boschi fino ad arrivare alla New Forest History, come l'ha chiamata. Devo subito confessarvi che la parte più difficile per me quando devo presentare il mio lavoro è l'introduzione, l'incipit, cercare di capire da dove partire. E quindi in questo caso ho pensato che forse un buon modo può essere provare a rispondere a una domanda semplice, banale se volete, e cioè: perché ho scelto di occuparmi proprio dei boschi e della società nelle Alpi, e perché ho scelto come caso di studio proprio la Val di Fiemme nella seconda metà dell'Ottocento, perché il periodo in modo specifico è quello che va dal 1866 al 1914. E per rispondere a questa domanda ho preso in prestito le parole di uno storico che si è occupato del caso, che è Mauro Nequirito, che scrive che la magnifica comunità di Fiemme in modo particolare è l'esempio di comunità regoliera, quindi un insieme di regole, di gran lunga più significativo quanto ad ampiezza territoriale, sfera di attribuzioni e tradizioni storiche. Ora, è impossibile riuscire a riassumere la storia della magnifica comunità di Fiemme dal 1111 ad oggi in breve, e dico dal 1111 perché è l'anno dei patti gebardini, cioè un accordo che la comunità fa con il vescovo del tempo, che era Gebardo, appunto, che dà il nome a questo atto, ed è importante perché è il primo documento ufficiale in cui la magnifica comunità viene citata in quanto magnifica comunità. E anche qui ho preso in prestito le parole di un altro storico, che invece è Stefano Barbacetto, che dice che è il primo atto concreto di una plurisecolare vicenda di autonomia. E in effetti però poi è all'inizio dell'Ottocento che la storia della magnifica cambia, e questa piccola terra, come la chiama sempre Barbacetto, vive quelli che sono dei mutamenti radicali. E, anzi, se vogliamo, è proprio con l'inizio dell'Ottocento che si crea una frattura rispetto al passato, e quindi la magnifica comunità comincia ad assumere un ruolo sempre più, diciamo, prettamente economico, in quanto responsabile proprio della gestione del patrimonio boschivo ed immobiliare di cui è. Non dirò molto su questa parte perché tra non molto ci sarà l'intervento di Giovanni Zaniol su questo periodo, e quindi vado direttamente, vi porto alla fine dell'Ottocento, quindi in modo particolare vi porto a Parigi nel 1900, anno in cui si tiene l'esposizione mondiale, quindi è il progresso che va in scena, che viene mostrato al mondo, e vi porto qui per darvi un'idea di quello che era il patrimonio della comunità, in modo particolare Giovanni Franzelin, che era l'economo forestale, cioè questa figura che viene assunta nel 1878 dalla Magnifica proprio per gestire in modo economico i boschi. Scrive una descrizione storico-economica del possesso boschivo della comunità generale di Fiemme, e lo fa perché la Magnifica viene scelta dal governo austriaco come caso esemplare di buona gestione forestale, e quindi meritava di essere esposta a Parigi. E quella che vedete in foto, quello che vedete in foto, anzi, è il padiglione delle foreste, della caccia e della pesca, appunto, dove si trovava il materiale, in modo particolare la Magnifica, però i materiali che sono stati prodotti. E proprio qui, chiaramente, scusate, ho messo Vienna 1899 perché questo opuscoletto che scrive Franzelin viene pubblicato a Vienna nel 1899, ma l'esposizione è del 1900. Ecco, questa foto mi lascia sempre un po' senza parole, quindi scusate. Tra i materiali che sono stati prodotti per l'esposizione, oltre a un plastico e all'opuscolo di cui vi parlavo, ci sono diverse foto, e tra queste foto una in particolare ha poi ispirato la mia ricerca, ed è questa. Quelle che vedete sono delle donne operaie addette ai vivai forestali, ma poi ho scoperto dagli allegati che erano addette anche ai rimboschimenti, e sono in posa per essere mostrate, no? All'esposizione. È una foto che ammetto mi ha colpito molto, perché non conoscevo queste figure, che in Val di Fiemme vengono chiamate pezzere o peciolere in dialetto, e ammetto anche che mi piace portare in giro questa foto sia all'Università di Torino, all'Università di Bologna, per ora mi è capitato di parlarne solo lì, perché leggo lo stesso stupore che ho provato anche nei volti delle persone che non le hanno mai viste. E la curiosità verso queste operaie è cresciuta sempre di più nel tempo per due motivi. Il primo è che non sono state trattate moltissimo nella letteratura. Vengono citate in qualche saggio, però non è stato dedicato loro abbastanza spazio, almeno a mio avviso. E il secondo motivo è legato al primo, e cioè i materiali emersi fino a questo momento parlano del lavoro che facevano, quindi della loro attività, del luogo in cui lavoravano, quindi la struttura dei vivai. Ci sono delle mappe bellissime dei vivai forestali e poi anche quanto guadagnavano e i loro nomi, ancora di più, ancora più bello. E questo mi ha dato l'impressione di avere un po' di carte in tavola per poter andare a colmare quello che nel mondo accademico viene chiamato il gap nella ricerca, no? Il vuoto. E quindi, ecco, il mio obiettivo sarebbe dimostrare come già nell'Ottocento in Val di Fiemme non solo è attestata la presenza di questi operai, ma addirittura è possibile ricostruire una storia sociale ed economica di queste figure. E per me è significativo perché mi permetterebbe di togliere quel velo dell'invisibilità su una categoria sociale che in genere resta ai margini per mancanza di dati. E secondo me lo spiega bene questo passo di una studiosa giornalista inglese, che è Caroline Criado Perez, che in un libro che vi consiglio peraltro si chiama Invisibili, come il mondo ha ignorato le donne dati alla mano. Nell'introduzione scrive: quando i corpi e le voci delle donne riescono a uscire dall'ombra, le cose cambiano, le lacune si colmano. Ecco, a proposito di quello del gap di cui vi parlavo. E chiaramente non è soltanto questo l'obiettivo del progetto, perché è chiaro che queste figure non possono essere studiate estrapolandole dal contesto sociale ed economico di cui facevano parte, che è quello della Val di Fiemme nella seconda metà dell'Ottocento, che pure non è stato così tanto studiato. Quindi, oltre ad occuparmi delle colture forestali in modo specifico, mi piacerebbe capire qual era la cultura, le radici culturali alla base della legislazione forestale di metà secolo, in modo particolare quella della legge forestale del 1852, quali erano gli attori coinvolti nei lavori boschivi, che se vogliamo possiamo vederli in due fasi. Una prima fase che ha a che fare con quelli, con i lavori che avvenivano all'interno del bosco proprio, e quindi il taglio e i rimboschimenti, e poi una seconda fase che invece ha a che fare con la lavorazione, il trasporto e di conseguenza il commercio, e poi gli effetti di queste trasformazioni sulla società e sul territorio. Ecco, un attimo, scusate. Per portare avanti questa ricerca ho preso in considerazione degli archivi. I principali sono senza dubbio quello della magnifica comunità di Fiemme, che è a Cavalese, conservato nel palazzo della stessa, e non credo di dover dire il motivo per il quale è il più importante. E poi c'è l'archivio provinciale di Trento, che invece conserva un superfondo che è chiamato Amministrazione delle foreste di Fiemme Fasse e Primiero. Ed è importante perché, come vedete, qui ho riportato qualche numero, ricopre un arco cronologico che va dal 1590 al 1987, ma è un superfondo. A livello di consistenza è composto da 753 registri e 1403 buste, che in metri lineari si traduce in 153,48 metri lineari. Chiaramente non lo prenderò in considerazione tutto, per ora sto guardando solo la documentazione del periodo austriaco e poi più avanti andrò a guardare i sottofondi in modo più specifico in base agli elementi che emergeranno. E poi non sono così importanti come questi due, ma saranno senza dubbio di aiuto l'archivio di Stato di Trento, dove da non molto è stata versata la seconda parte del giudizio distrettuale di Cavalese, e quindi quello lo sto prendendo in considerazione soprattutto per i contenziosi. I contenziosi soprattutto, l'archivio diocesano di Trento per i dati anagrafici, quindi nascite, matrimoni e morti, per vedere chi erano le persone che stanno pian piano popolando la mia ricerca, gli archivi comunali, di cui per ora però ho visto solo quello di Cavalese e conto di vedere quello di Predazzo, e poi man mano, come vi dicevo, gli archivi che saranno utili in base agli elementi che pian piano emergeranno. Per esempio, un mese fa qui vi ho portato come esempio quello della famiglia Feltrinelli, perché sono stata a Milano per consultare delle buste, e non so se lo sapete, io l'ho scoperto facendo questa ricerca, ma i Feltrinelli, prima di essere un'importante casa editrice, erano i più importanti commercianti di legname, cioè loro nell'Ottocento nascono proprio come famiglia di mercanti di legname. Avevano diverse sedi non solo in Italia ma anche all'estero, una di queste sedi era quella di Bolzano, e avevano degli agenti in valle, quindi proprio per quello che stava dicendo prima Katia sui mercanti e le famiglie, beh, mi piacerebbe capire qual era la geografia del potere, che tipo di rapporti c'erano, ma è ancora forse presto per parlarne. Il fondo per ora principale è stato sicuramente quello denominato Consesso della Comunità Verbali 1818-1945, che è conservato nel Palazzo della Magnifica, ed è importantissimo perché, come dice il nome, raccoglie tutti i verbali delle sedute dei capi comune. I verbali sono raccolti in registri indicizzati, quindi gli indici sono coevi, e già dall'indice, insomma, dagli indici si può cominciare a mappare i temi che vengono trattati dal consesso, e poi pian piano in realtà dai verbali si può già capire per quanto tempo parlano di un certo tema, come prendono decisioni, quanto va avanti un dibattito. E proprio i verbali mi hanno permesso di individuare 4 temi principali, di cui adesso vi parlerò. Il primo è questo, la lotta per la linea tranviaria. Dagli anni 90 dell'Ottocento si discute moltissimo della possibilità di collegare la Val d'Adige alla Val di Fiemme. Il primo a presentarsi alla Magnifica nel 1892 è Paolo Smazzurana, che al tempo era podestà di Trento. Lo è stato dal 1872 al 1895, che è l'anno della sua morte. E insomma, Smazzurana va dalla Magnifica e propone di costruire questo tratto, questo tratto che con partenza dalla Vis e arrivo a Predazzo. La Magnifica però non era molto convinta del progetto. In quegli anni lamentano spessissimo di avere problemi economici, e quindi, non essendo convinta, decide di non dare immediatamente una risposta. Si prende del tempo, intanto finanzia dei progetti. A quel punto però la città di Bolzano probabilmente sente minacciati i propri interessi, e allora manda degli ambasciatori appunto sempre dalla Magnifica, e propone un altro tratto, il tratto Egna-Predazzo-Moena. A quel punto tra le due città nasce uno scontro che poi, per forza di cose, finirà durante la Prima Guerra Mondiale, perché, come sapete, poi il tratto verrà inaugurato nel 1917. Però perché vi sto raccontando questo episodio? Non perché sia interessante parlarne oggi, ma perché durante una seduta del 4 giugno 1895, proprio discutendo della tranvia alla Vis Predazzo, si lamentano di un articolo che è stato pubblicato sull'Alto Adige, e dicono, vado direttamente al punto, protestano alla summenzionata asserzione, quindi quanto detto nell'articolo, perché non soltanto falsa, ma a bella posta scritta da mano astuta, onde svisare le cose tanto a decoro della comunità generale come dei signori capocomuni che la compone, come all'onore di terzi di cui si va intaccando, per cui il consesso, per mettere le cose a suo posto, invita il signor presidente a portare a pubblica conoscenza la presente protesta mediante la pubblica stampa. Allora, questo episodio proprio mi ha dato l'occasione di andare nella biblioteca comunale di Trento, consultare i microfilm dell'Alto Adige di quell'anno, prima di tutto controllare la veridicità del contenuto, e poi man mano che sfogliavo il giornale ho avuto la possibilità di cominciare a segnare altri elementi interessanti per altri temi che pure si verificano in quegli anni e che avevo ritrovato nei verbali, per esempio la manutenzione delle strade, ma anche costruzione delle strade, di nuove strade. Dagli anni Ottanta, soprattutto dal 1882, che è l'anno in cui il nord Italia viene colpito da una forte alluvione, nei verbali sono presenti moltissime richieste di ricostruzione di strade, ponti, case che vengono danneggiati da quelli che loro chiamano fiumane, inondazioni, alluvioni. E questo mi ha permesso di capire la narrazione che avevano su questi eventi e poi il modo in cui li gestivano. Non ho detto, ma lo accenno, l'alluvione del 1882 è stata studiata in letteratura, soprattutto per quanto riguarda le grandi città. C'è un saggio molto bello su Verona, però è stata poco studiata per quanto riguarda la Val di Fiemme, e questo mi spinge ancora di più ad occuparmene, perché proprio la settimana scorsa, mentre leggevo l'Almanacco Agrario, che è questo opuscolo pensato per dare consigli pratici agli agricoltori e che viene pubblicato per la prima volta nel 1883, ad un certo punto, verso la fine, c'è questa sezione sulle inondazioni del 1882, che dura, se non ricordo male, 4-6 pagine, e i toni sono, come vedete, inizia proprio così: non possiamo, senza provare una stretta al cuore, rivolgere il pensiero a giorni nefasti dell'inondazione di quest'anno, la quale ci ha lasciato tale ricordo che purtroppo, e così via. Ora non lo leggo tutto perché non è così importante, però se vi interessa è digitalizzato e è molto bello sfogliare l'Almanacco Agrario. Ma alla fine riportano questo prospetto con i danni arrecati nel raggio dell'Imperial Regia, sezione di locotenenza in Trento, di cui il distretto politico di Cavalese fa parte, e se andiamo a vedere i numeri sui danni alle strade, Cavalese, il distretto di Cavalese è terzo dopo solo Trento e il Primiero, e quindi probabilmente vale la pena fare un po' più di luce su questa zona, e in più mi piacerebbe farlo non considerando soltanto gli articoli di giornale, quindi la pubblicistica, ma prendendo in considerazione anche altre fonti, non so, lettere, relazioni, ego documents, no? Come mi suggeriva anche Katia. Non l'ho detto, ma immagino sia ovvio il perché le strade sono un tema importante per la Magnifica. Il motivo principale è che permettevano il commercio del legname. Certo, non solo, ma possiamo sicuramente dire che il principale era questo. E a tal proposito, ogni anno nei verbali si trovano dei resoconti delle aste per la vendita dei legnami mercantili, che non bisogna lasciarsi sfuggire, perché riportano i nomi dei compratori, le cifre che proponevano e poi anche a quanti venivano vendute le partite di legname, nelle varie zone, e mi sembra di aver detto tutto. Sì, compratori. E questo è interessante perché tra i nomi che si possono leggere non ci sono soltanto i singoli e le ditte locali, non so, per esempio i fratelli Bortolotti o i fratelli Giacomuzzi, ma come vi dicevo prima c'erano i fratelli Feltrinelli, la ditta anzi Feltrinelli di Bolzano, e poi un elemento che è emerso un anno fa e a cui sono molto affezionata, è emersa questa figura di vedova, una donna che ad un certo punto resta vedova, decide di prendere in mano le sorti della famiglia e partecipa alle aste per comprare il legname mercantile. E voi direte, e cosa c'è di strano? Beh, è strano perché le aste erano una cosa prettamente maschile, perché bisognava avere molto, molto denaro a disposizione per poter partecipare e poter battere. E poi, e poi perché fino a questo momento è l'unico caso di donna emerso, e quindi secondo me vale la pena approfondirlo. L'ultimo tema, che forse per ora è un po' il nucleo centrale della mia ricerca, e vi dirò anche perché, è questa controversia che va avanti per moltissimo tempo, circa una trentina d'anni, dal 1870 1876-78 fino sicuramente al 1895, ed è la controversia dei cosiddetti boschi bianchi contro i boschi neri, cioè i boschi bianchi sono i boschi di latifoglie, quelli a ceduo, invece i boschi neri sono i boschi ad alto fusto, quindi le conifere. E è una controversia tra la Magnifica Comunità e i comuni, in modo particolare di Predazzo, Ziano e Panchià. Ed è importante, come vi dicevo, perché secondo me tiene bene insieme tre questioni. Prima di tutto la questione della proprietà, perché di chi erano questi boschi a quel punto? Cioè dei singoli comuni, erano di Predazzo, Ziano e Panchià, oppure erano della Magnifica? E quindi su questo discutono molto. La seconda questione è economica, perché si decide di sostituire i boschi bianchi con i boschi neri perché, come dicono nelle fonti, l'abete rosso, quindi il piceo, è una specie nobile e quindi era sicuramente una specie che aveva più valore sul mercato, ecco, e quindi doveva essere sostituito. E poi la terza questione è quella, diciamo, più ambientale, cioè quali sono stati gli effetti di questa decisione, quali sono state le conseguenze legate alla scelta di piantare più abeti rossi e larici rispetto ad altre specie come la quercia, l'ontano, la betulla e così via, no? E questo, cioè questo tema qui, quello dell'interazione che c'è tra l'essere umano e l'ambiente, è centrale per chi, come appunto già diceva anche Katia prima, si occupa di storia ambientale. La controversia sembra finire nel 1895, quando l'economo forestale Franzelin, quello di cui vi parlavo all'inizio, di Parigi, assegna dei pezzi di boschi a ciascun comune della comunità, e se noi guardiamo il prospetto stilato proprio dall'economo, sui dati relativi all'estensione del patrimonio i numeri sono sempre gli stessi, poi si arriva al 1895 e c'è un crollo, e quello è il momento in cui la Magnifica perde buona parte del patrimonio proprio per questa controversia. Ecco, all'inizio vi dicevo che ho molta difficoltà sulla parte dell'incipit, ma in questo caso ho avuto difficoltà anche sulla conclusione. Non sapevo come chiudere questo intervento, e probabilmente non lo so perché la ricerca è ancora in corso, sono a metà, finirà tra un anno, e questo vuol dire che, continuando a frequentare gli archivi, possono emergere nuove fonti ancora interessanti e importanti. E quindi ho pensato di chiudere con questa citazione di Albino Casetti, che è un importante archivista, è stato anche il direttore dell'Archivio di Stato di Trento, che scrive: «È un'esperienza ormai scontata che gli archivi portano una specie di benefico contagio. Chi supera le difficoltà di iniziazione non li lascia più, perché come miniere inesauribili danno sempre qualcosa di nuovo e sanno sempre ricompensare la fatica non facile e non breve. Chi poi vi ha trascorso e dedicato tutta una vita, non esclusi i difficili periodi della guerra e dell'alluvione, sente che non può lasciare quel mondo in apparenza silenzioso e lontano, in realtà così ricco di nostre memorie e vicende secolari, così popolato di personaggi e così vivo, senza lasciarvi qualcosa di se stesso». E questa frase in realtà è venuta fuori grazie a Katia, quindi uno dei tanti giorni in cui vado a cercare consolazione se magari non è venuto fuori niente di interessante, e quindi grazie per l'attenzione. Allora, grazie molte a Katia e a Lucia per questa bella presentazione. Tra l'altro, dalla presentazione di Lucia avete visto anche una prospettiva sulla bottega dello storico, no? Sul modo di lavorare che hanno gli storici, e soprattutto in questo caso qua di una storica giovane e piena di entusiasmo. A me piace sempre sentire quando, no, queste forze fresche, insomma, si affrontano questi temi con uno spirito ben diverso da chi lo fa da tanto tempo. Allora, ci hanno presentato alcuni aspetti molto importanti, no? Consentimi di tornare alla citazione dei Patti Gebardini, 1111, anche se c'è un dibattito se la data sia giusta o meno. C'è un secondo dato interessante di questi patti, che sono stati sottoscritti a Bolzano. l'atto è stato sottoscritto a Bolzano in un periodo in cui in realtà noi non sappiamo ancora se la città in quanto tale esisteva, però molti, diversi degli atti di quel periodo che riguardano la Val di Fiemme vengono sottoscritti a Bolzano, no? Che era territorio del, comunque del principesco vescovile, e questo insomma ci fa riflettere sul fatto che quella la nostra città in quel periodo fosse effettivamente già un centro di qualche rilevanza, no? Anche se non sappiamo se come città in senso proprio esistesse già. E poi c'è il secondo aspetto che è interessante, secondo me, che è quello dell'Ottocento, perché l'Ottocento è un periodo che forse è stato studiato meno per alcuni aspetti, ma che per l'area alpina è particolarmente importante, perché è un periodo di crisi per le Alpi. Perché? Perché le Alpi restano escluse in qualche modo da quello che sta succedendo, dai processi di modernizzazione che succedono, che avvengono altrove. Le Alpi fanno fatica a tenere il passo della modernizzazione, no, che avviene nelle aree alpine, fanno fatica a costruire le ferrovie, fanno fatica ad avere un sistema industriale che funzioni, e questo è un momento in cui anche le elite, le classi dirigenti si trovano a dover riflettere cosa ne facciamo, no? come riusciamo a reagire a questa cosa, e quindi andare a vedere cosa succede nell'Ottocento in questo periodo, in una realtà che poi ha problemi anche di immigrazione, no? Con fenomeni di marginalizzazione sociale piuttosto importanti, e è significativo per riuscire a capire come poi le comunità hanno reagito, no? a questa situazione. E la prima domanda, posso farla io? Chiedo a Lucia di ritornare sulla bellissima fotografia d'apertura. Puoi raccontarci qualcosa di più di quelle donne che si vedono in quella foto? Le metto in grande così. Allora, cosa posso dire più di quello che non ho già detto? Posso dire quello che sto cercando di fare. Sto cercando di trovare i loro nomi esatti, perché ho le liste di lavoro. Quindi so per certo, ho a disposizione diverse liste di lavoro, soltanto che questa foto è stata scattata in Valcadino. In Valcadino, una parte della Valcadino era demaniale e l'altra parte era della Magnifica, e queste liste di lavoro in parte sono in archivio provinciale, e sono nel fondo dell'amministrazione delle foreste di Fiemme, Fassa e Primiero, e un'altra parte sono nell'archivio della Magnifica. Ora, chiaramente, essendo il caso esposto quello della Magnifica in sé, immagino fossero proprio una squadra della Magnifica, però non ho trovato la lista delle lavoratrici di quell'anno specifico, perché su a Cavalese ci sono le liste dal 1910 al 1913, quindi risulta più difficile. Sto cercando di andare indietro per vedere se riesco a trovare il custode forestale della Valcadino, perché quelli che vedete in foto, uno, ci sono per lo più donne, però ci sono anche tre uomini, tra l'altro armati. Esatto. E uno di questi dovrebbe essere Franzeli, non ho anche parlato con Tommaso Dossi, che è l'archivista, e sospettiamo sia questo qui, non so se si vede il cursore. Poi c'è un ragazzo molto giovane, comunque. Gli uomini nelle fonti si dice che venivano assunti per i lavori pesanti, però in realtà si ritrovavano a fare tutte le stesse attività, e quindi anche le donne partecipavano ai rimboschimenti, perché appunto negli allegati ai consuntivi ho trovato le fatture in cui vengono pagate per l'impiantazione, c'è scritto. E quindi, dicevo, sto cercando di capire se trovo il custode forestale della Valcadino di quell'anno, e poi magari confrontarlo con le liste di lavoratrici in cui lui appare, visto che erano sorvegliate da custodi, e capire se il numero delle presenti corrisponde al numero della foto, e provare in quel modo, e poi dopo pian piano ricostruire, capire se emergono anche dati anagrafici di queste. Però è un lavoro molto più lungo per ora, e quindi purtroppo questa foto è unica, quindi non riesco neanche dal punto di vista visivo, diciamo, no? Dei visual, non so come possiamo chiamarli, però non riesco neanche a confrontarla con altri casi simili per vedere, non so, come erano vestite, che tipo di strumenti strumenti stavano usando. È ancora in corso. Ma, scusa, c'è un'idea sul tipo di contratto di lavoro? Cioè era un lavoro occasionale oppure era una professione? Occasionale. Occasionale. Quindi in certi periodi. Lavoravano da maggio, da maggio a settembre, però non per tutta l'estate. Per esempio iniziano da maggio a giugno e poi settembre, ottobre, primi di novembre in alcuni casi, dipendeva anche dalla... E sempre nelle liste di lavoro, in genere, quando i nomi sono riportati per tutti quanti insieme, no? Donne e uomini, quindi tre uomini magari e tutte donne, nelle note c'è scritto non ricordo esattamente tutta la frase, con giornate da donna specifico. Quindi... che hanno un valore diverso. E poi l'altra cosa, ecco, adesso pian piano che ci ripenso, venivano pagate esattamente la metà. Sì, esatto. Sì, sì, questa è la distinzione. Eppure essendo occasionali lavoravano più giorni rispetto agli uomini, questo sì anche. Questo è quello che bellissimo. So. Bellissimo. Per ora. Bene, signori, signore, sì. Due microfoni. Sì, siamo super dotati qua. Volevo chiedere, a Bolzano nei primi del Novecento, adesso non mi ricordo bene la data, c'era la Feltrinelli che produceva l'amazonite, che era una specie di compensato. Può essere collegabile a questa famiglia Feltrinelli? Avete notizie? Chiedo l'aiuto di Katia, ma direi proprio di sì, perché certo. Perché abbiamo avuto delle foto, dei contatti con... In zona industriale? Sì. Uno degli stabilimenti della zona. Sì, è molto probabile. Insomma, quello che si sa attualmente dei Feltrinelli è che appunto loro cominciano come mercanti di legname e impiantano la loro sede sul lago di Garda, da cui si espandono e alla fine dell'Ottocento hanno sedi e aziende un po' in tutta l'Europa. La sede di Bolzano appunto è una cosa su cui per noi sarebbe importante approfondire e capire meglio quali tracce restano, per cui sì, questa ci deve essere per forza una relazione, anche perché Feltrinelli è un cognome talmente particolare, sì, per cui non è così comune, cioè non è Sartori, cioè non è un cognome. Poi più... il fatto che producessero questa amazonite, la chiamavano, che è una sorta di compensato, sì, quindi sì, con i resti di una produzione. Sì, chiaramente essendo un prodotto di scarto del legname, può essere sicuramente legata all'indotto delle lavorazioni del legname, perché poi loro avevano anche appunto questa segheria sull'Isarco, no? Verso Cardano. Però di fatto l'azienda Feltrinelli è stata molto studiata, soprattutto da Luciano Segreto, attraverso, lui ha scritto la biografia dei Feltrinelli, e ha studiato soprattutto il commercio, la loro presenza nell'est dell'Europa e poi anche appunto le attività della sede centrale a Milano, perché poi loro appunto diventano anche i primi banchieri, hanno questa banca molto importante, fino a quando c'è questo grande tracollo, questo crack durante il fascismo, questo crack appunto con la morte, con il suicidio di uno dei padri fondatori, diciamo. Però gli sviluppi locali e le diramazioni locali dell'azienda sono da approfondire, per cui anche nel nostro caso per noi è importante, anche perché poi l'attività dei Feltrinelli nella regione è legata anche alla ferrovia, alla posa delle traversine in legno della ferrovia, per cui ci sono anche dei contratti di proprio fatti da Feltrinelli e da agenti che comprano ad esempio legname in Val Rendena o in altre aree del Trentino, per cui sono presenti, hanno lasciato tracce. E se ci riuscite a dare questo contatto delle foto, per proviamo. Noi è interessante per riallacciare questo dialogo. Abbiamo anche qualcuno che ha lavorato, cioè almeno conoscevamo qualcuno che aveva anche lavorato. Se è ancora vivo, perché? Certo, chiaro. Io vi ringrazio, non so se c'è qualche domanda, ma comunque vi ringrazio tantissimo, è stata una bellissima serata, ci ritroveremo allora quando termina la ricerca, vero? Ecco, con... Andrea, ci tieni in contatto? Sicuramente, ecco. Siete già prenotate. Benissimo. Dell'invito e dell'accoglienza. Grazie a voi e insomma, bocca al lupo per tutto. Sì, signore. Certo, aspetta che diamo il microfono. No, serve perché va registrato. Non c'è mai stato il dubbio di essere con la provincia di Trento o la provincia di Bolzano? Sì. Comunità. Che io sappia, no. No. Anche perché la lingua era quella trentina più o meno. Eh no? Sì. Tranne direi Trodena, no? Sì. Tranne Trodena e Anterivo. E Fontanefredde? Fontanefredde anche, sì. Però per il resto no, direi che non c'è dubbio. Assolutamente. Cioè, da un punto di vista, la cosa è molto complessa, cioè da un punto di vista storico bisogna pensare al fiume come una sorta di divisione tra l'area, diciamo, più di lingua tedesca e l'area, diciamo, più trentina sulla sponda sinistra della Visio. Poi chiaramente dal 1111 le cose si evolvono, per cui ci sono delle fasi storiche in cui ci sono queste giurisdizioni che si mescolano e si sovrappongono, però sostanzialmente quando parliamo di Magnifica Comunità di Fiemme e della struttura che sta studiando Lucia, sì, allora siamo dentro il territorio del Principato Vescovile, anche se il Trentino e il Tirolo è comunque una specie di macchia di leopardo in cui ci sono un po' giurisdizioni tirolesi, un po' giurisdizioni vescovile, poi ci sono le giurisdizioni nobiliari, per cui è sempre un po' complicato. Insomma, dobbiamo fare delle fotografie per sezioni e nell'Ottocento sicuramente la parte trentina, diciamo Trentina nel senso linguistico forse, perché poi di fatto siamo nell'impero asburgico, comunque siamo nel land del Tirolo dopo il 1803 comunque. Se posso aggiungere una cosa su questo tema, allora ci si chiede perché la Val di Fiemme avesse questo privilegio, no? Cioè il fatto che ci fosse questa comunità che potesse autogestirsi, avesse questa proprietà. Allora, risposta che si può dare è che era una comunità di confine. No? Era al confine del Principato Vescovile e le comunità di confine vengono privilegiate perché hanno un ruolo importante, no? Di presidiare il confine e di non essere tentate di passare dall'altra parte anche. E quindi un'altra delle caratteristiche tipiche della valle è che non ci sono i castelli, non c'è quella presenza signorile che troviamo in altre realtà. Questa comunità era titolare di questi privilegi perché si trovava in una posizione strategica, e questa è una cosa che il principe vescovo di Trento ha fatto anche per altre realtà. Bolzano aveva un privilegio particolare sui dazi, sul commercio, e Riva del Garda ne aveva un'altra, quindi queste zone che presidiavano il confine erano zone che godevano di privilegi particolari. Proprio anche per questa motivazione politica, no? che c'era dietro. Ovviamente stiamo parlando dell'inizio, non stiamo parlando dell'Ottocento, dove le cose erano già decisamente diverse. Sono forme di autogoverno autonome, anche ad esempio per la reggenza dei sette comuni, che dipende comunque dalla podesteria di Vicenza e dalla Repubblica di Venezia, comunque hanno dei privilegi speciali legati proprio a queste posizioni lungo il confine che loro dovevano presidiare, per cui facevano anche queste comunità, e anche i boschi erano naturalmente presidiati e importanti perché fungevano anche da sorta di sbarramento dove si potevano nascondere banditi piuttosto che non contrabbandieri, per cui sono tutti mondo molto vivaci e dinamici per chi li guarda come noi dalle carte. Ancora domande, curiosità? Se no non ci resta che ringraziare moltissimo le nostre relatrici per questa piacevole serata, con un applauso, e da parte mia ancora grazie, e vi ricordo i prossimi appuntamenti. Infatti il prossimo sarà il 1° d'aprile, che è una giornata quindi affollata. Valeria, ci sono tante iniziative qua? No, il 1° d'aprile è la nostra. Ah, ok. Il 3 aprile. Ah, no, va bene. Va bene, ok. 1° d'aprile ci sarà Giovanni Zaniol tra l'altro, quindi lo avete qui in anteprima, insomma, e vi aspettiamo anche la prossima volta. Grazie.